Europa 24. Eccoci qua, grazie a Piera Ceci. Dunque l'Europa, un buongiorno naturalmente da Gigi Donnelli. Dicevamo, l'Europa riparte con un tema che stiamo affrontando parecchio queste settimane, quello delle unioni civili. L'Italia non sta creando nuovi diritti, ma semplicemente eliminando la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, quanto sottolinea il commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muizinek, in un'intervista all'Ansa, in cui evidenza anche che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è chiara: se le coppie etero non sposate possono adottare i figli del partner, lo stesso devono poter fare le coppie dello stesso sesso. E dunque il tema della stepchild adoption. Ancora dal Regno Unito, è record di no all'Europa in un sondaggio britannico sul referendum, insomma la cosiddetta Brexit. Il 45% degli elettori vuole l'uscita del Regno Unito dall'UE, mentre il 36% chiede di rimanere nel club. Alta la percentuale degli indecisi, 19%, dunque evidentemente sarà determinante per la scelta definitiva. Siria ed emergenza migrazione nell'incontro organizzato oggi dalla presidenza olandese in Olanda. Sentiamo allora il servizio. Lotta all'ISIS, emergenza migratoria, guerra in Siria e cooperazione con l'Iran. Questi i temi al centro della riunione informale dei ministri degli esteri dei 28 paesi membri dell'Unione, affiancati stamattina da quelli della difesa. Per l'Italia, che secondo il vicepresidente Katainen è il primo beneficiario del piano di investimenti della Commissione, ci saranno i ministri Gentiloni e Pinotti. Una riunione come questa spero metta in campo una capacità maggiore dell'Europa di sapersi difendere, di sapersi proteggere con una strategia comune. Sicurezza e politica estera, dunque i nodi della due giorni ad Amsterdam organizzata dalla presidenza olandese. Oggi pomeriggio il dibattito sarà sulle relazioni tra Europa e Teheran dopo l'accordo sul nucleare e la fine dell'embargo. Domani immigrazione e rotta dei Balcani occidentali. L'incontro sarà presieduto dall'alto rappresentante Mogherini, presente il segretario generale della NATO Stoltenberg. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Luci delle città, naturalmente europee, ma quale luci? Ci racconta tutto Cristina Carpinelli. Mentre invece la burocrazia che sta alle mie spalle. Diceva così Nanni Moretti, e forse il tema è simile anche in questa storia. Parliamo di illuminazione e del fatto che dal 2018 strade, uffici e spazi pubblici d'Europa potrebbero essere illuminati peggio di oggi e con maggiore dispendio energetico. Il paradosso nasce da una direttiva europea, la Ecodesign, quella stessa che ha consentito finora efficienza e risparmio e che ora starebbe lavorando a una nuova proposta che di fatto accorpa i regolamenti sugli standard energetici per l'illuminazione domestica e quelli sull'illuminazione degli spazi commerciali e pubblici, cioè si pensa, proprio per equiparare pubblico e privato, di reintrodurre sul mercato vecchie tecnologie antiecologiche ed energivore, come ad esempio le lampadine a incandescenza. Una notizia ancora in discussione che ha però messo sul chi vive gli ambientalisti. Davide Sabadin, che con Legambiente fa parte del circuito ambientalista europeo Cool Product. La Commissione europea rischia di peggiorare la situazione per le lampade stradali e le lampade dell'ufficio, perché tornano sul mercato delle opzioni che erano di fatto destinate a scomparire o erano scomparse. Ma questo perché? La motivazione di carattere amministrativo, cioè non volevano avere più tre tipologie di normative e preferivano avere una normativa unica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Luca Bisaschi, 24 anni, studente in scienze politiche e relazioni internazionali. Pari Dauphin. Luca Bisaschi, Erasmus Plus, è il protagonista del racconto che va in onda domani mattina alle 7.15 nel nostro spazio dell'Euro Reportage a cura di Angelo Miotto domattina. Un'anticipazione dunque per ricordarvi che, come dire, tra tutti i temi dibattuti sull'Unione Europea, quello di Erasmus è sicuramente uno dei suoi maggiori successi, ma ci sono parecchie novità. Dunque appuntamento domattina alle 7.15. E per ora è tutto con l'Europa, che naturalmente torna anche lunedì alla solita ora intorno alle 14. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.